GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In presidio davanti alla STM di Magnago è arrivato anche il papà di Daniel Taffa, il 22enne morto perché colpito da una scheggia metallica staccatasi da un macchinario. La CGIL ha presentato ricorso contro l'azienda sanitaria Friuli Centrale riguardo all'esternalizzazione dei servizi sanitari dei pronto soccorso di Udine, San Daniele, Tolmezzo, Palmanova e La Tisana. A Gorizia, pochi minuti fa, il vicepresidente della Commissione Fitto ha visitato il municipio e ora si reca al Teatro Verdi, dove interverrà alle giornate dedicate ai programmi Interreg. Con lui sul palco ci sarà anche la commissaria per l'allargamento dell'Unione Europea, Marta Kos, e il vicepresidente del Parlamento Europeo. L'amministratore delegato di Trasna, che ha acquistato lo stabilimento U-Blox, oggi è a Sgonico, dove sta incontrando i lavoratori e i rappresentanti sindacali. Il turismo invernale, mosso dagli impianti di risalita nell'epoca del riscaldamento globale, non è più sostenibile, lo dice la responsabile di Legambiente per le Alpi, che suggerisce una montagna slow per il turismo alpino. Marco da Milano, conduttore del Cavallo e la Torre su Rai 3, è il nuovo presidente della giuria del premio giornalistico Lucchetta. Una grande responsabilità, ha detto, soprattutto in un momento in cui i giornalisti sono nel mirino testimoni scomodi di guerre e crimini contro l'umanità. Buongiorno da Daniele Lettic e Nada Ciocchi. In apertura il presidio dei lavoratori della STM di Magnago e la fortissima carica emotiva che ha accompagnato l'arrivo del padre di Daniel Taffa davanti ai cancelli della fabbrica dove lavorava assieme al figlio 22enne nello stesso turno di notte in cui ha visto il figlio perdere la vita trafitto da una scheggia metallica. Abbracciato dai colleghi, sostenuto dalla comunità tutta, il signor Elvin Taffa, papà di Daniel, è stato il primo alle 7 del mattino a presentarsi al picchetto organizzato dai sindacati di fronte alla STM di Magnago. 48 ore prima, in questa azienda metalmeccanica, ha trovato la morte il figlio di 22 anni compiuti quel giorno, trafitto alla schiena da una scheggia di metallo incandescente. La tragedia, all'1:20 di notte, a mezz'ora dalla fine del turno, è avvenuta sotto gli occhi dei colleghi. Gli ultimi 40 minuti del turno l'ho passato proprio in macchina con lui, ho sentito delle urla e sono andato lì a soccorrerlo e sono rimasto lì tutto il tempo fin in attesa che sono arrivati i soccorsi. Gli ho sorretto la testa, lo chiamavo, vedevo che comunque era molto, molto preso, molto molto male, molto male ragazzo, praticamente mi è morto tra le mani. Sarà l'inchiesta a far luce sulla dinamica dell'incidente. 4 gli indagati per omicidio colposo, tra cui il titolare della fabbrica che da quasi 40 anni è presente sul territorio. Entriamo senza le telecamere. Siamo svuotati dal dolore, ci dicono padre e figlio che hanno fatto visita a Vajont, a casa dei genitori di Daniel. Il padre lavora per la stessa azienda da 7 anni. Ai colleghi presenti chiede di farsi testimoni. Io lavoro lì. So anche il posto dove lavoro, ma no, io non ce la faccio entrare più in quella fabbrica. Non ho proprio minima idea cosa è successo, ma deve essere chiarezza. Non ce l'ho con nessuno, ma deve essere chiarezza. Tutti i suoi colleghi, quelli che hanno dato primo soccorso, almeno che ci facciano vivi e dire quelli che hanno visto, quelli che pensano e quello che è successo. 3 giorni di sciopero indetto dai sindacati. L'azienda sta valutando di dichiarare lutto lavorativo, retribuendo ai dipendenti le 3 giornate di sciopero. Martedì si svolgerà l'autopsia sul corpo del giovane. È stato richiesto l'accesso agli atti da parte di Furio Honsel, consigliere Open Sinistra FVG, sulle dinamiche dei soccorsi. Roberto Zaami, Wilm Pordenone. A noi risulta che i colleghi di lavoro all'1:20 abbiano chiamato il numero unico e che per ben 2 volte il numero unico era occupato. Magnago, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'esternalizzazione dei servizi dei pronto soccorso di Udine, San Daniele, Tolmezzo, Palmanova e La Tisana è stata decisa senza il confronto con le organizzazioni sindacali. Lo sostiene la CGIL che ha presentato ricorso presso il Tribunale di Udine contro l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per violazione delle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali. La CGIL prende tempo per fermare l'esternalizzazione dei servizi sanitari di pronto soccorso a Udine, San Daniele, Tolmezzo, Palmanova e La Tisana e presenta un ricorso presso il Tribunale di Udine contro l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per non aver fornito adeguata informazione né aver avviato il confronto previsto dal contratto nazionale. L'annullamento dell'esternalizzazione è stato chiesto dalla CGIL il 14 marzo e solo successivamente la SUVFC ha convocato i sindacati. tempi. La CGIL sottolinea che la preoccupazione del personale dei cittadini è emersa chiaramente anche durante il presidio di martedì 25 marzo alla Tisana. Andrea Traunero, della Funzione Pubblica CGIL di Udine. Qui si parla di privatizzazione, c'è scritto sull'atto aziendale, sul piano attuativo aziendale pubblicato e deliberato dall'azienda. Noi non eravamo a conoscenza se non dagli organi di stampa successivamente. Gli obblighi nei confronti dei sindacati sono stati rispettati, ha precisato il direttore generale della SOFC, Denis Caporale, dichiarando che la CGIL ha deciso che il pronto soccorso debba essere chiuso. L'esternalizzazione non è stata una scelta, ma un atto dovuto per mantenere il servizio e questa è stata l'unica soluzione, la replica di Caporale. Ma secondo Funzione Pubblica CGIL, le alternative ci sono. Sia la direzione e sia la regione non ha e non sta mettendo in campo tutte quelle forme attrattive, c'è bisogno di incentivazione, c'è bisogno di un'opera di assunzioni a livello di sanità, di professioni sanitarie e c'è un'opera di attrattività. Non dobbiamo essere attrattivi solo per le prestazioni sanitarie che vanno verso altre regioni, ma dobbiamo essere attrattivi per il personale che poi mette in campo. Udine, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. L'amministratore delegato di Trasna, che ha acquistato lo stabilimento di Ublox, oggi è a Sgonico, dove sta incontrando i lavoratori e i rappresentanti sindacali. Una squadra di esperienza, ottime persone. Il piano è integrare la tecnologia sviluppata con i nostri prodotti di telecomunicazione. L'orizzonte entro cui dovrebbe chiudersi tutto è giugno, ma speriamo prima, terremo assolutamente tutto il personale, ne abbiamo bisogno. Sono i cervelli quelli di cui abbiamo necessità. Si presenta così alla città e alla regione Stefan Fund, amministratore delegato di Trasna, dopo la prima visita e il primo incontro di persona con i dipendenti della Ublox di Sgonico. Alle 10 del mattino il saluto con tutti i lavoratori, alle 11 il meeting con le rappresentanze sindacali unitarie, poi un giro per tutti i laboratori e nel pomeriggio un incontro con i responsabili di dipartimento. Per capire come funzionerà l'integrazione, i sindacati fanno l'esempio di un telecontatore. Conterebbe il modulo pensato da Ublox e la SIM di Trasna, per consentire agli operatori luce e gas di avere accesso immediato ai dati di consumo. Già firmato il contratto preliminare d'acquisto per il 100% del ramo triestino della società svizzera. Si attende il tavolo ministeriale a Roma per sbloccare la procedura di Golden Power fatta valere dall'esecutivo. Molto positivo l'incontro, ci pare già di vivere in un altro mondo, commentano i sindacalisti dell'RSU. La proprietà intellettuale passerà completamente a Trasna, acquisendo così anche il mercato e portando con sé 12 commerciali. Il sito è inattivo, la prospettiva è già buona e non ci sono ridondanze di attività tali da determinare esuberi. Sul tavolo avanzata anche una suggestione, come indica Massimiliano Generutti, USB Lavoro Privato Trieste. Nel sito di Sgonico c'è la parte di ricerca e sviluppo e la produzione si fa in Flex Austria. Esiste però anche Flex qui sul territorio, in crisi in questo momento. Bisognerebbe fare un ragionamento a tutto campo con le istituzioni per capire se si può reindustrializzare Flex e farlo alla luce dell'accordo Ublox Trasna. La Svizzera Ublox ricavi da 276 milioni di euro, ma in calo del 54% rispetto all'anno precedente, a gennaio aveva annunciato di voler dismettere gradualmente la parte di business cellulari per concentrarsi sulle tecnologie di posizionamento satellitari. Sgonico, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E tra qualche minuto al Teatro Verdi di Gorizia sono attesi gli interventi del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, della commissaria per l'allargamento Marta Kos e del vicepresidente del Parlamento europeo, che concluderanno la seconda giornata dedicata a Interreg. Adeguare le circostanze locali per rilanciare le politiche di coesione. Sul palco del Teatro Verdi di Gorizia, nei giorni dedicati ai progetti Interreg dell'Unione Europea, il commissario italiano alle coesione e alle riforme e vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto elogia il modello transfrontaliero e si augura venga implementato come già avviene nei progetti Interreg su turismo, salute e istruzione, rimuovendo gli ostacoli che rimangono per rendere ancora più attraenti le zone di confine, visto che le comunità locali già cooperano con i vicini dell'altra parte della frontiera. Per Fitto la cooperazione è un valore chiaro e di valori e comuni ha parlato anche l'altro commissario presente a Gorizia, la slovena Marta Kos, responsabile del potenziale allargamento dell'Unione. Dobbiamo conoscere i nostri vicini fuori dai confini dei 27 e costruire fiducia celebrando i piccoli passi. Kos ha parlato anche dell'adesione di Moldavia, della domanda dell'Armenia, ma anche dell'Islanda e ovviamente dell'Ucraina. Sul finanziamento dei progetti Interreg oltre 2027 attraverso i fondi di coesione è intervenuto anche il presidente presidente della regione Massimiliano Fedriga. I soldi sono fondamentali, ma da soli non bastano. Serve anche un impegno sugli adeguamenti legislativi e sulla semplificazione con procedure più rapide, ha detto. Gorizia, Andrea Saura, TGR Friuli Venezia Giulia. Delle 265 strutture legate allo sci non più funzionanti in Italia, 11 si trovano sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. È uno dei dati contenuti nel dossier Neve Diversa di Legambiente, intitolato Una nuova montagna è possibile, che sarà illustrato alle 18 alla ex tipografia Savio a Pordenone. A presentarlo la curatrice e responsabile nazionale di Legambiente Alpi, Wanda Bonardo. L'abbiamo intervistata. Friuli Venezia Giulia, come tante altre località dell'arco alpino, risente fortemente dei cambiamenti climatici e quindi ci sono le stesse caratteristiche che abbiamo riscontrato in altre regioni, ovvero una riduzione del manto nevoso e di conseguenza un'influenza sulle attività sciistiche che, come ben sappiamo, sono ipercompensate dalla neve artificiale. Però, insomma, la domanda è fino a quando durerà tutto questo. Possiamo parlare di impianti che vengono poi appunto mantenuti solo con ingenti investimenti per l'innevamento artificiale? Sì, è così. Infatti siamo al 98% di investimenti sull'innevamento artificiale su quasi tutte le Alpi e a partire dal Friuli. Quindi senza neve artificiale non si potrebbe più sciare e gli investimenti sono molto consistenti. Stante l'evidente cambiamento climatico, come si può ripensare il futuro delle terre alte, in particolare riguardo al turismo invernale? C'è parecchio da fare, però prima iniziamo, e meglio è, e soprattutto iniziamo spostando gli investimenti dall'industria dello sci a un modello di sviluppo diverso. Su che cosa si può basare questo modello di sviluppo diverso? Ma sicuramente su un turismo più distribuito nel tempo, ma anche nello spazio, e quindi cerchiamo di investire in quelle attività che permettono di una fruizione 365 giorni l'anno su tutto il Friuli. E quindi io penso alle ciaspole, se ce n'è, ma alle camminate, all'equitazione, la bici, il tutto intrecciato con le peculiarità locali come la buona cucina, come le emergenze culturali. E Marco da Milano, conduttore de Il Cavallo e la Torre, programma di approfondimento quotidiano di Rai 3 ed editorialista di Domani, il nuovo presidente della giuria che il prossimo novembre decreterà i vincitori della 22esima edizione del Premio Giornalistico Internazionale Marco Lucchetta. Presiedere il premio intitolato alla memoria di Marco Lucchetta, Sasha Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin, per me è un onore e una grande responsabilità, ha detto, soprattutto in un momento in cui i giornalisti sono ancora letteralmente nel mirino, testimoni scomodi di guerre e di crimini contro l'umanità, testimoni da cancellare. Il giornalismo d'inchiesta ha proseguito e offeso e ferito ogni giorno anche nel nostro paese. Allo stesso modo spariscono dall'agenda mediatica i piccoli, i fragili, i marginali, ha concluso da Milano. 7 le categorie previste dal bando: TV News, stampa italiana, reportage, stampa internazionale, fotografia, radiofonia, rotta balcanica. C'è tempo fino a mercoledì 25 giugno per candidare le proprie opere pubblicate tra il 21 maggio del 24 e il 21 giugno del 2025 su una testata giornalistica registrata. 12 e quasi 44 minuti, il tempo, cielo in prevalenza coperto su pianura e costa, da nuvoloso a variabile nella zona montana. Queste le temperature delle 11, a Trieste 16 gradi e 5 decimi, a Pordenone 19 e 5 decimi, a Gorizia 17 e 5 decimi e a Udine 16, a Tolmezzo 15, a Forni di Sopra 13 e 5 decimi, a Piancavallo 10 e 5 decimi, a Sappada 10, a Tarvisio 8, sul Monte Zoncolan 3 gradi, sul Monte Lussari 5 decimi di grado, sulla costa a Lignano 16 gradi, a grado 15. Le previsioni a cura dell'ARPA FVG: questo pomeriggio cielo variabile sulla costa e sulle zone orientali, soffierà vento moderato da nord-est, a tratti più sostenuto a Trieste sul Carso e sui monti in quota. Domani al mattino cielo variabile, probabilmente nuvoloso sulla costa, sulle zone orientali e sui monti in quota, soffierà vento moderato da nord-est, in tarda serata possibili deboli piogge sulla fascia orientale. In meno di un mese sono state 5 le navi straniere fermate in rada da parte della Guardia Costiera di Trieste, che in occasione dell'approdo presso i porti di Trieste e Monfalcone ha riscontrato la presenza di fondati motivi di pericolo per la vita umana in mare e per l'ambiente. Tutte le imbarcazioni non rispettavano alcune norme internazionali concernenti l'addestramento e la preparazione dell'equipaggio, le condizioni di vita e lavoro a bordo, l'efficienza dei mezzi e delle dotazioni di salvataggio, la funzionalità degli impianti e degli equipaggiamenti antincendio e antinquinamento. Oltre ai provvedimenti di fermo, la Guardia Costiera ha elevato multe per un totale di 21.000 euro per aver accertato lo svolgimento da parte degli equipaggi di esercitazioni insoddisfacenti. Fu l'inventore della pasta fissa Nosiride Brovedani, ma fu anche internato in un lager nazifascista e filantropo. A ricordare la sua vita, una fondazione e un museo a Trieste. Sentiamo. Un luogo che raccoglie un'esperienza umana e un percorso imprenditoriale che ha segnato nel passato la vita di Trieste e forse oggi pochi ricordano. È la Casa Museo di Osiride Brovedani in via Leon Battista Alberti, zona Campi Elisi, l'uomo che portò in tutte le case la pasta Fissan o Fissan, utilizzata per la cura di intere generazioni di bimbi italiani. Osiride Brovedani è stato il signor Fissan, a Trieste era conosciuto anzi come è il signor Fissan. La fabbrica in realtà nasce a livello molto artigianale nei primi tempi per poi trasferirsi e continuare a lavorare per oltre 35 anni nel pian terreno proprio di questo stabile. Noi siamo in quella che è stata casa di Osiride Brovedani, nell'appartamento dove ha vissuto tutta la sua vita e dove dagli anni 30 fino al 65 ha portato avanti l'attività dell'azienda proprio nel pian terreno di questo stabile. Una storia di impresa di successo portata avanti dopo la morte di Brovedani nel 1970 dal suo amico e collega Raffaele De Riù, palermitano trapiantato a Trieste. La Casa Museo ripercorre però anche l'esperienza più drammatica di Brovedani, la deportazione nei campi di concentramento. Osiride Brovedani era ebreo da parte di madre, la mamma Noemi era ebrea, lui è ebreo per lineaggio, fu catturato proprio a casa sua su delazione di un vicino di casa e nel luglio del 1944 appunto fu portato nelle carceri del Coroneo per poi essere caricato sui treni e portato prima a Buchenwald, poi conoscerà anche il campo di Dora, il campo di concentramento di Dora, di Bergen-Belsen e di Witzendorf. Dalla storia imprenditoriale di Brovedani nasce anche una fondazione impegnata nel sociale. Si occupa oggi di ospitalità per persone anziane autosufficienti. La casa albergo, costruita a Gradisca di Sonzo, garantisce ospitalità e aggregazione a decine di anziani del territorio. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quella che avete sentito nel servizio era la voce di Luca Candini, referente della Fondazione Brovedani. E ora passiamo alla musica, la Passione secondo Giovanni nelle chiese della regione. Il capolavoro di Bach è stato eseguito ieri sera nel Duomo di Udine e questa sera verrà riproposto a San Giusto a Trieste. Le sofferenze e la morte di Gesù Cristo raccontate in musica del più importante compositore della civiltà occidentale. La Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach è una musica che nasce come meditazione e preghiera, con il racconto del Vangelo affidato ai recitativi, la riflessione morale e teologica nelle arie solistiche e le emozioni della comunità dei credenti nei corali e con il coro, chiamato anche nel racconto evangelico, a fare la parte del popolo che di Gesù Cristo chiede la condanna e la crocifissione. Una musica nella quale Bach mette tutta la sua infinita sapienza di compositore e che realizza il miracolo di essere drammatica senza mai perdere rigore e sobrietà. Caratteristiche messe in luce dalla direzione di Giulio Prandi alla guida dell'orchestra del Verdi di Trieste e del coro del Friuli Venezia Giulia, con un gruppo di solisti di esperienza nel repertorio barocco. In regione una doppia esecuzione nelle cattedrali, ieri a Udine, a Santa Maria Annunciata e stasera a Trieste e San Giusto. E le chiese sono il luogo migliore per ascoltare questo lavoro, o diremmo meglio, per partecipare alla celebrazione. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Nata nel 1932, la Società dei Concerti di Trieste continua a offrire al pubblico ogni anno un ampio programma di musiche ed eventi. Nel programma Buongiorno Regione abbiamo ripercorso il suo passato e anche qualcosa del futuro. Oltre 90 anni di vita e più di 1500 appuntamenti con la musica classica organizzati, la Società dei Concerti di Trieste è un'istituzione ormai storica in città. Il direttore artistico Marco Seco. Nasceva da grandi famiglie della città che volevano insomma coltivare, direi, la cultura, che nel tempo poi infatti è diventato un pezzo fondante della identità triestina, musicale e anche culturale. Negli anni si è trasformata, perché è passata da essere palcoscenico delle persone che lo frequentavano, a più di 2000 soci, e oggi è diventato un polo culturale, direi, non solo di Trieste, direi della regione, direi della zona, è tra le 10 società di concerti più famose in Italia. Ampio ogni anno il suo programma di eventi. Settimana prossima proprio a un concerto importante con il maestro Rudolf Buchbinder, che torna in città dopo moltissimi anni e che è massimo esponente della scuola che si dedica a suonare soprattutto la musica di Beethoven, e quindi sarà un concerto importante credo per tutta la città. Ecco, siamo a metà stagione, nel prossimo periodo abbiamo anche altri concerti ancora da camera, viene il violinista Kachatrian, un grandissimo promessa una volta oggi, direi, artista affermato del mondo musicale. Punto importante per la società, l'attività con le scuole. Ma come si fa a far appassionare i ragazzi alla musica classica? Innanzitutto portandoli a teatro e facendoli ascoltare, perché poi la musica coinvolge in prima persona, bisogna farla ascoltare. Molte volte le persone non sanno perché non ascoltano. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E così chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Lettig e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.